specifica la Lazio. È difficile inquadrare se ci può. Scusi, se dottor Vero, le rivolgo allora specifica domanda. Se ci può quantificare queste ulteriori contribuzioni in cui fa riferimento per altri procedimenti. Vediamo un attimo a quando abbotta. Io ritengo che queste siano cifre che riguardino altri capi di imputazione, altri procedimenti, altre situazioni. Sì, ma lasci stare quello che le richiederei. Io le sto facendo una domanda. Se può rispondere, c'è da aggiungere, secondo me, ancora una cifra tra un po' inferiore ai 2 miliardi. Ci può dare indicazione di come? Avvocato, ma posso dargli io le indicazioni quando lei è il difensore di Lorenzo e sa perfettamente quali procedimenti sono in piedi? Siccome a me risulta una cifra di gran lunga inferiore, lei mi dice 2 miliardi, mi dico, mi faccia la cortesia di darmi indicazioni di questi 2 miliardi, come la fa arriva a 2 miliardi? Presidente, io posso parlare di procedimenti che sono anche... Allora, io posso leggere delle cifre. Borrelli che ha versato 280 milioni, Chiave Caruso 150 milioni, Baldi 300 milioni, Brancaccio 60, Materazzo 180, Milone 150 e così via. La somma di tutte queste situazioni... Se il dottor Barone cortesemente ci può dare anche la indicazione dell'epoca di questi... E sono tutte situazioni che sono passate per le mie mani, di cui io ho cognizione o non ho cognizione, con lo stesso criterio con cui ho fatto al Presidente. Vabbè, il Tribunale poi ci autorizzerà eventualmente a esibire gli atti giudiziari ai quali questi... Comunque, Avvocato, scusi, ritornando alla domanda, se mi consente di precisare. Io posso dare la certificazione delle entrate e dire come sono state spese queste situazioni e quindi praticamente tutto quello che è passato per le mie mani, io che cosa ne ho fatto nelle rendicontazioni presentate a De Lorenzo. Adesso poi le quadrature delle altre somme non credo che sia un fatto che compete a me. No, cioè, la domanda, scusi, dottor Marone, allora che io avevo fatto era questa. Risultano 8 miliardi e 700 milioni di entrate. Risultano da quelle somme che avevo fatto 8 miliardi e mezzo di uscite. Ma questi sono calcoli che ha fatto il difensore, non sono dichiarazioni di Barone. E proprio, diciamo, no, dico solo, scusi avvocato, in contabilità, se mi consente, c'è un dare e c'è un avere. Io posso dire qualche cosa sul dare o sull'avere a secondo di come si legge il prospetto, ma sull'altra parte non ne ho assolutamente conoscenza. Ma io quelle cifre le ho ricavate dalle sue dichiarazioni, dicendo questo ho speso per tanto, questo ho speso per tanto, questo ho speso per tanto. Ho fatto la somma e sono arrivato a circa 8 miliardi e mezzo. Allora volevo sapere se lei mi dava indicazione di questa ulteriore cifra che era stata investita in CCT. Siccome noi abbiamo una dichiarazione di Lorenzo Renato che dice che sono rimasti soltanto 300 milioni di CCT e lei dice perché tutti gli altri sono stati utilizzati per i pagamenti. Chi lo dice questo? Scusa, De Lorenzo Renato. Non è vero. Inizialmente poi è arrivato un miliardo. Vabbè, poi vediamo. C'è stata. Donorenzo ha dato questa indicazione. Poi vedremo se c'è un'indicazione diversa, un'indicazione successiva. Lo dico. La risposta di Marone, secondo voi, i CCT sono rimasti per l'ordine di 1,5 miliardi. Giusto? Sì. E basta. Sì, sì. Chiedo scusa, però per la completezza del verbale, altrimenti sembra che ci sia un'omissione di risposta da parte del dottor Marone. Dovremmo verificare questa cifra di 8 miliardi in uscita, da quali verbali è stata verificata? Per vedere se poi vi si riconosce. L'avvocato Panzina a testa è detto che è un suo calcolo, benissimo. Sì, allora che resti un calcolo del difensore. Mi consente, Presidente, di precisare che appunto io su questa seconda parte, non lo so, io so esattamente quello che ho detto relativo a una colonna di un conto, cioè ho le entrate e ho le uscite. E quindi quello che io sapevo, poi dopo di che, come vengono articolati gli altri conti, non sono in condizione di poter dare nessun tipo di risposta. Se dai soli capi di imputazione risultano uscite per 6 miliardi e mezzo, perché sono 4 miliardi la somma dei capi di imputazione delle fatture pagate, 586 milioni che sono... Non sono in grado di seguire, dobbiamo fare... Ma quali sono queste fatture? Quali fatture? Le fatture pagate dalla tipografia Simeone, eccetera. Avvocato Panzi, come vedi, già quello che lei dice trova nel pubblico ministero una considerazione. Oh, allora voglio dire, queste... Ma queste non sono uscite, ma le fatture non sono uscite, che sono pagate dalle imprese. Non mi sono, no, evidentemente, Presidente. Vedete che stiamo già discutendo. Quindi no, Presidente, no, no. È errato questo modo di procedere che io non contento. E qui chiudiamo il discorso. Lei voleva sapere da Marone che fine avevano fatto i CCT, se erano, ammontavano meno, perché lei non sa. Poi se il suo, la sua conclusione sarà matematicamente inoppugnabile, lo vediamo alla fine. D'accordo, non c'è problema. Una ultima domanda, scusi. Lei ha detto che le forniture di sacchetti che lei ha fatto per le ditte ammontavano tutto sommato a poche centinaia di migliaia di lire, lo ha detto nell'udienza di... Io non ho mai detto una cosa del genere. Udienza del 24 settembre, questo è... Vabbè, allora Presidente, superiamo la passa. Ci può dare le indicazioni a quanto ammontano le forniture di sacchetti che lei ha fatto per le varie ditte farmaceutiche? Più o meno. Io lo scorso udienza disse al Presidente e anche al Collegio di Difesa che se avessero voluto e se avessero disposto nei modi tradizionali o nei modi, diciamo, giudiziari che non mancavano, sì, logicamente, avrei potuto presentare una lista in modo che questo fatto poteva soddisfare una volta e per tutte tutte le richieste della difesa. Il Presidente alla fine ha detto serve ancora, la difesa ha detto no, non serve. Adesso lei vuole stimolare un'altra volta il ricordo su questo argomento. Io potevo presentare questo prospetto se serviva per soddisfare. Io non voglio un prospetto, volevo sapere semplicemente se ci poteva dare una indicazione, sia pure sommaria, globale, a quanto abbondano queste. No, io volevo io per quanto riguarda i numeri mi piace sempre di essere preciso, anche perché poi adesso lei mi dice che ho detto centinaia di miliardi lì, cose che non ho mai detto, allora non mi faccia dire altre cifre in libertà adesso. Mi ero offerto di presentarla. La difesa ha ritenuto che non era necessario, ma lo richiede ancora oggi. Posso ripresentarla ancora? Vabbè. Ricorda di forniture fatte alla Pfizer? Questo me l'ha chiesto già l'altro dia, avvocato. Ricorda qual era la settimana? Ricorda qual era l'ammontare di queste? No, non ricordo qual era l'ammontare, credo decine di milioni, comunque non erano mai centinaia di migliaia di lire, mai. Ricorda se si trattava di 63.514.014 per bisognerebbe vedere se comprensivano di IVA, può essere una cifra del genere, non lo escludo. Bisognerebbe andare a vedere i costi industriali, i ricavi su queste situazioni, i prezzi correnti di mercato. Certo, va bene. Presidente, la difesa ha concluso. 5 minuti e iniziamo l'esame dell'imputato. Sì. Dobbiamo chiudere questi confronti. Ecco, alla fine chiamiamo quella Camera di Consiglio. 5 ASNA. Abbiamo interrotto. Per 5 minuti, mi ricordo male. Per 5 minuti. Allora, diamo atto che sono le ore 14. Che il Tribunale aveva sospeso alle 13.45 per 5 minuti. E che al suo rientro non è presente né l'imputato né il suo collegio difensivo, nella specie né i difensori di fiducia né il sostituto processuale avvocato Freud, che pure stamattina erano, che sono invece presenti i pubblici ministeri e il difensore del Ministero della Sanità. Dato atto di quanto sono, il Tribunale sospetto, chiedendo all'ufficiale giudiziario di informare al rientro in aula dell'imputato e dei suoi difensori. Non è che stanno fuori? Questo l'ho visto, questa è la nonna. I difensori, quando il tribunale sospende per un certo tempo, avrebbe piacere a ritrovarci tutti all'appuntamento dato, anche perché, per essere proprio franchi, io ho dato una sospensione di 5 minuti, sapendo che la sospensione è di 5 minuti, noi non ci siamo presi nemmeno un bicchiere d'acqua, so con piacere che invece voi non avete fatto una situazione di questo genere e avete allungato. No, Presidente, per la sospensione. Io sono uscito, sono entrato dalla sesta, sto uscendo dalla sesta. Se lei avessi saputo che la sospensione era più lunga, anche il Tribunale avrebbe potuto riposarsi. Lei purtroppo si deve rendere conto che con tutti i lunedì e martedì bloccati da questo processo, noi abbiamo necessità di infilare anche nello spazio di una interruzione. Basta che ci mettiamo d'accordo sulla sospensione. sapere se mi posso allontanare o se a un certo punto il fatto che io mi allontani sia poi causa di un ritardo, cosa che io non voglio. Questo è tutto. Allora, io scusi, da un attimo la innanzitutto noi esibiamo, Presidente, altra documentazione che chiediamo sia acquisito il fascicolo del dibattimento, il documento della commissione AIDS alla quale si evincono i criteri informatori della medesima, briefing della campagna AIDS 1991, parere del Consiglio di Stato avente ad oggetto lo schema di contratto per l'affidamento delle operazioni relative alla ideazione e all'attuazione della campagna informativa educativa sull'AIDS del 1988, decreto legge e legge di conversione, questo è ovvio che è per comodità solo del Tribunale che lo aggiungiamo, e legge dell'88 e legge dell'87 per il che regola le discipline delle imprese. Non faccia venire la parte. Le altre parti su questa richiesta? Il pubblico ministero non si oppone alla richiesta di acquisizione avanzata dalla difesa dell'imputato. La parte civile? Non si oppone. L'altra parte civile lo stesso, il Tribunale acquisisce la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato ed elencata dall'avvocato Panzini e dispone che la stessa non sia acquisita al verbale ma custodita in uno a quelle che sono le produzioni difensive e tutte le cartelle di documenti. Semmai, se la cancelleria precisa che si tratti della documentazione esibita all'udienza di oggi. Poi l'avvocato Esposito voleva la parola. Sì, Presidente, la ringrazio. La difesa di Lorenzo deve avanzare richiesta di confronti tra il coimputato Marone Giovanni e una serie di altri coimputati. Ovviamente la richiesta dovrà essere articolata in un certo modo anche per rispetto compiuto dell'articolo 211 del Codice di Rito Penale. Se il Tribunale ritiene lo faccia ora oppure vuole che ci sia un ulteriore tempo, io mi fermo a questo punto e mi rivolgo al Tribunale. La ringrazio, avvocato. Allora, verbalizzata questa richiesta, verbalizziamo altresì che, atteso che in ogni caso il Tribunale si riserverebbe su una richiesta di confronto, e posto che la stessa è già preannunziata come richiesta che andrebbe articolata compiutamente in relazione alle singole posizioni, certo, asseritamente in contrasto, il Tribunale invita il difensore a formulare e al meglio articolare questa richiesta in un momento successivo dell'istruttoria, atteso che appare opportuno dare corso all'esame dell'imputato già programmato. E pertanto l'avvocato Farelli prende atto, Presidente. Prende atto. Grazie. Di questa idea del Tribunale e successivamente si concorderà un momento in cui questa richiesta difensiva potrà essere compiutamente esposta. Grazie. Allora, l'imputato intende sottoporsi all'esame? Allora, verbalizziamo che l'imputato intende sottoporsi all'esame, si accomoda. Sì. Se serve, poi lo prendiamo. Allora, le sue generalità. Francesco De Lorenzo. Nato a Napoli il 5 giugno 1938. Allora, abbiamo detto che l'imputato intende sottoporsi all'esame, il pubblico ministero può iniziare. Quello che raccomando, facciamo l'esame, domande e risposte, non cappelli e riorganizzazioni o riassunti di quello che è accaduto. Allora, prima di scendere nel dettaglio delle singole vicende, vorremmo fare una sorta di carrellata di tutte le vicende per vedere se lei... una carrellata sintetica. Vediamo dove vuole andare a parare il pubblico. Non scherzate. Prima ancora di fermarlo. Passare risposta. Ho visto che è stato completamente inutile. Allora, prego. Ma no, c'è un motivo. No, ho capito. Vediamo di comprendere la domanda. Noi citiamo le domande, le vicende, e il professor De Lorenzo ci dirà se ammette che direttamente o per interposta o attraverso Marone o per interposta persona è stato destinatario della relativa d'azione. Questo indipendentemente dalla natura, dai motivi. Poi andremo la domanda è limitata alla materialità del fatto. Del fatto della d'azione, cioè della riscossione di denaro per sé. Certo. O attraverso, attraverso terze persone. Allora, questo può essere... La risposta è sì o no. La risposta è sì o no ed è limitata, verbalizziamola ancora una volta, semplicemente a conoscere una risposta circa l'effettiva materialità del fatto. Allora, con riferimento ai capi 2 e 3, la cosiddetta colletta Farmindustria, d'azione di 800 milioni di lire da parte di Cavazza, Claudio. Sì, ma non nella quota riportata. E ci dica la quota? 700 milioni. Andiamo avanti. Allora, capo 4, capi 4 e 5, 40 milioni di lire da Aleotti Alberto. Aleotti Alberto, sì, ma non in questa somma, per 20 milioni. 20, ha detto? 20, sì. Capi 6 e 7. Ventra Ferdinando, 100 milioni di lire. Sì. Quando lei non precisa significa che il sì si riferisce anche all'entità. Sì. Capo 8, De Vita della Celsius, 300 milioni circa. 200 più 80. Capi, come risulta dal resto anche del corso interrogatorio, del dibattimento. Capi 9 e 10, Angelini Gino, 60-70 milioni circa. Angelini no. Capi 11 e 12, Mantovani Azio della Beffa Luigi, vicenda Inverni della Beffa, 300 milioni circa. Mantovani sì, però non sono in grado, perché non ne ho avuto cognizione né diretta né indiretta dell'ammontare. So, perché Marone mi ha riferito che c'era stata una contribuzione, ma non so né sapevo qual era l'entità. Capi 13 e 14 della Valle Fidia, 300 milioni. Anche qui la stessa questione, perché non fui informato da Marone sull'entità né sulle motivazioni della contribuzione, quindi non sono in grado di dire se effettivamente erano quelle che Marone ha indicato o no. Capi 15 e 16, Poli Stefano, 400 milioni circa. Sì, ma compresi così con l'altro capo di imputazione, cioè... C'è 200, mi pare 220 milioni, 240 milioni per pagamento di fatture. Presidente, quando intendo pagamento di fatture significa che non sono finanziamenti passati né da me né attraverso Marone. Cioè il pagamento della fattura veniva direttamente dall'imprenditore al soggetto che doveva pagare. In questo caso si riferisce all'Explorer Magno e sta anche a dimostrare che la ditta testa non contribuì con i propri soldi, ma fu soltanto un terzo pagatore. Quindi la ditta testa contribuì soltanto per 180 milioni. Perché erano sempre soldi di Poli. Perché erano soldi di Poli. Quindi non ci fu altro che l'incasso di quella somma, la restituzione a Marone, e con quei soldi la testa fece fronte a quelle che erano le esigenze di pagamento per la pubblicità del giornale o per altro. Quindi la ditta testa non ha fatto altro che contribuire con una spesa di 180 milioni al sondaggio telefonico del Partito Liberale a livello nazionale per importi di 180 milioni. Tutto il resto della ditta testa non è altro che il risultato di una triangolazione. Quindi, allora come somme in contanti? della Poli. No, chiedo scusa, anzi chiedo scusa che interferisco nell'esame del pubblico ministero, ma la risposta 400 milioni Poli Stefano, lei ha detto compresi con l'altro capo, si riferisce a quello dell'esplorer. Esattamente, quindi il complessivo 240 e comunque io tengo 220 e 180. 240 e 160 mi pare, ora non lo ricordo, comunque fondamentalmente così come noi abbiamo esposto nel corso interrogatorio, così come ha detto l'avvocato Panzini. Quindi chi... 240 sono di Poli e i 160 della testa. No, Presidente, no. Dunque è bene che su questo allora. Ma forse meglio diciamo complessivamente Poli ha versato per il partito 400 milioni, di questi 180 o 160 furono dati direttamente a me o a Marone e 240 furono da Poli dati per il pagamento di una fattura dall'Explorer Macmo. Quindi mi scuso per l'ultima volta che ho pubblicato il ministero, per lei c'è una duplicazione di contestazione sulla sì, esattamente, che è stata anche rilevata dagli avvocati. Era quella alla quale si riferiva l'avvocato. Si aveva chiarito l'altra volta anche Marone dicendo in totale 400. E quindi se possiamo specificare la quota contanti, se le ricorda. Ha detto che non si ricorda. 220 o 240. No, o 160 o 160 o 140, non lo so. Poi capi 17 e 18, Formenti, Sergio, 250 milioni. Sì, poi le motivazioni, come dice il Presidente, le darò dopo. Sì. Poi capi 19 e 20, Barracchi Emanuele, Wiesler Dieter della Ciba Geghi, 250 milioni. Sì, con la solita riserva. Certo. Capi 21 e 22, vicenda Alfa Wasserman Schiaparelli, i coimputati sono Girotti, Golinelli e Montevecchi, lire 80 milioni circa. No, perché una quota di questa fu data al comitato Patuelli a Bologna direttamente, come si evince anche dai verbali, e il resto, quello dato da Montevecchi, io non ero a conoscenza. Quindi di Montevecchi non so niente e del resto so che 30 milioni andarono al comitato Patuelli e so soltanto di 10 milioni che Golinelli disse a Marone che erano soltanto un fiore per la campagna elettorale mia e che non erano assolutamente vincolati, come del resto emerge anche dagli atti, a qualsiasi tipo di intervento mio di carattere amministrativo o politico. Capo 23, sotto un triplice profilo, vicenda Zambelletti Giampaolo, 50 milioni di lire in contanti? No. Regali per un valore di circa 200 milioni di lire? No, perché i regali sono come da perizia molto di meno. Quindi non contesta i regali in quanto tale, no, ma la cifra. Sì, che del resto fu fatta a suo tempo proprio perché la questione dei regali, mi devo trattenere un attimo per dare un inquadramento, sarò brevissimo. La questione dei regali deve essere inquadrata nell'ottica che c'era un rapporto marito-moglie. La moglie di Zambelletti aveva un suo negozio e quindi vendeva al marito come società farmaceutica e naturalmente fatturava in eccesso per questioni di interesse personale. Allora fece fare una perizia e c'è una perizia depositata alla quale mi rifaccio in termini di valore. Va bene. Viaggi aerei messi a disposizione da Zambelletti Giampaolo? Sulla questione dei viaggi voglio anche precisare una cosa, perché questo fa parte sulla motivazione, accettazione o meno. Io non accetto nessuna delle indicazioni di viaggi aerei, perché i viaggi aerei io li ho accettati in funzione della disponibilità data di aerei richiesti alle industrie farmaceutiche per partecipare a congressi medici. Siccome ero bersagliato, ero a quel tempo un ministro che faceva audience e quindi dava prestigio ai congressi, ero bersagliato per partecipare ai congressi e l'aereo della CAI, della Presidenza del Consiglio era disponibile soltanto per manifestazioni ufficiali a cui il ministro andava in nome, per conto e rappresentanza del governo. Faccio riferimento per esempio alle riunioni della Comunità Europea a Bruxelles o ad altre manifestazioni inviate dal governo. Per i congressi medici io mi rifiutavo di andare, perché dicevo che non avevo mezzi. I vari docenti universitari, primari ospedalieri, organizzatori dei congressi, si rivolgevano loro alle industrie farmaceutiche, con le quali avevano rapporti personali, perché mi mettessero l'aereo a disposizione. E io in molti casi non sapevo neanche l'aereo da dove veniva, sapevo che c'era l'aereo, e questo tipo di organizzazione era il risultato di una forma, diciamo da sempre esistente presso tutti i ministeri, quindi una catena, Gann, eccetera, per non far venir meno una voce di rappresentanza del governo in congressi importanti, quali quelli dei medici di medicina generale, dove si discuteva alla vigilia dei contratti, del rinnovo delle convenzioni e dove l'assenza del ministro poteva risultare come rifiuto ad un dialogo anche in termini di carattere sindacale. Siccome a me risultava che l'aereo era messo a disposizione dagli organizzatori, io per quanto riguarda voli aerei non ne ho fatto chiedere mai a nessuno e non sono stati mai forniti per nessun tipo di collegamento diretto alla mia attività politica gestionale. Allora, capi 24 e 25, vicenda Raimondo Paolo Zambon Alberto Boccia Antonio, versamento a somma di 70-80 milioni circa. Questo mi fu detto, ma mi fu detto come un contributo dato per una questione che atteneva esclusivamente a una vicinanza politica, perché Fertonani, che era amministratore della Zambon, era un vecchio liberale da sempre, davvero è stato anche candidato nostro, e non mi fu riferito che era legato a questo, anche perché, come poi ho visto dagli atti, la testimonianza di questo sostegno avvenne mesi, molto mesi dopo la vicenda, legata poi a una determinazione che non atteneva alle mie competenze, perché è noto per legge che la revoca di un farmaco dal prontuario è di competenza esclusiva del Consiglio Superiore di Sanità. Quindi mesi dopo arrivò questo alla vigilia di una campagna elettorale. Quindi ci fu questo contributo? Ci fu questo contributo che, con questa motivazione. E non so, tra l'altro, se era 80 o 60, perché non è che mi veniva data la ricevuta ogni volta, ma Rune, genericamente, ogni paio di mesi, quando c'erano necessità di far fronte a scadenze elettorali, mi diceva, guarda che qua siamo rovinati, come, perché cosa è successo? E mi diceva, questo è stato questo, siccome ero preso, e credo che, e spero che il Tribunale voglia approfondire anche quello che è stato il mio impegno legislativo, non avevo disponibilità, perché lavoravo notte e giorno per far passare una legge di riforma sanitaria, che dall'83 inutilmente era stata prospettata e che con me è stata approvata in 2 anni, quindi io lavoravo notte e giorno al Parlamento e non tenevo conto di quello che emergeva sul piano del sostegno alla politica. Quindi Maroni mi faceva una sintesi generica alla quale io non prestavo orecchio, perché l'unica cosa che mi interessava era che la campagna elettorale per il rinnovo della regione, per Amelia Cortesi, si potesse svolgere, perché se non c'era la mia partecipazione non c'era neanche la presentazione alla lista della candidatura dell'interessato. Va bene, andiamo avanti. Allora, capo 26, Miglio Giuseppe, anche qui viaggi aerei. La stessa motivazione di prima? Sì. No. Capi 27 e 28, vicenda Florimonte Cesare e Bertarelli Fabio, la somma di lire 350 milioni circa, sotto forma di pagamento di alcune fatture per spese tipografiche, organizzative, promozionali, eccetera. Anche qui c'è una sovrapposizione di capi di imputazione. Il 27-28 include il 48-49, dove si parla di 23 milioni di fatture tipografiche senza indicazione del numero di fatture, che rientra nell'ambito del calcolo inizialmente fatto. Devo dire che per queste questioni delle fatture, siccome l'intervento fu a livello elettorale, in particolare per la campagna elettorale di Firenze, dove io mi sono candidato insieme ad altre due candidature, che era Napoli per la Camera e Senato, e Calabria, No, Calabria non ho sbagliato, elezione della Camera dei Deputati e elezioni Firenze e Bologna. Io fui candidato non per mia richiesta, ma con sollecitazioni che venivano da tutta Italia, perché tutta Italia mi voleva come capolista, perché ero un richiamo per voti di opinione, tant'è vero che a Firenze raddoppiamo i voti. Ci fu un intervento di Florimonte che si mise a disposizione per sostenere la mia campagna elettorale parzialmente a Firenze, quindi non so l'entità, ho letto 350 milioni, non so dire se effettivamente dovrei vedere le fatture che non sono state esposte e non sono in grado quindi di quantizzare. So che c'è stato questo intervento di sostegno politico da parte di Florimonte, tra l'altro era anche liberale, ma non posso dire e indicare con precisione qual è stata la somma e qual è stata l'entità del sostegno tipografico e di altre spese. Quello che posso dire è che per Florimonte non sono mai intervenuto in nessun atto. Lo vediamo dopo. Ma emerge pure dagli atti. Capo 29, ricordate Arrigo, anche qui questione dei viaggi. Sì, la stessa risposta. Capi 30 e 31, vicenda Montedison-Farmitalia, Garofano, Michetti, Binda, Germani, Bianche, Morrioni e Barbaro, dazione di lire 600 milioni circa. Dunque, su questa questione hanno già anticipato gli avvocati. Io sono a conoscenza, perché ne sono venuto, ne sono stato informato dopo che ci fu il versamento dell'entità, soltanto 300 milioni. Degli altri 300 milioni non so che destino hanno avuto, se sono stati dati e a chi, perché l'unico, diciamo, bonifico o versamento che è stato fatto sull'unico conto corrente, non mio, ma di transito, perché non ho mai avuto un conto corrente in Svizzera, era l'87-77 della banca che faceva riferimento a un fiduciario, e su quel conto, come del resto emerge anche dagli atti che sono a disposizione del Tribunale, ritengo, o comunque sicuramente lo ero la Procura, non risulta che ci sono stati 600 milioni, ma 300 soltanto. Quindi per questo dico che sì, ma poi entriamo nel merito, i 300 milioni mi furono detti dopo, perché Marone mi sollecitava a ringraziarmi senza che sapessi come erano andate le cose. Capi 32 e 33, vicenda Maffeis Flavio Glaxo, 200 milioni di lire. Questo non lo ricordo proprio. No, Maffeis no. Poi ci sono... Se sono fatture, credo di sì, ma se no. Soldi liquidati a me e non a Marone, no, perché io non ho mai accettato e non ho mai avuto soldi, tant'è vero che ho sempre richiamato per il versamento, anche quando si trattava di contributi che venivano da persone di famiglia, al versamento direttamente a Marone. Quindi Maffeis no. Poi sono i capi dal 34... al 37, riguardano le cosiddette vicende della SCR Imeco, sì. Per il quale non c'è un addebito di percezione da parte sua. Non mi pare che nel capo di imputazione c'è, però, c'è pure corruzione nel capo di questo capo di imputazione. Io sono accusato anche di corruzione. No, parlo di percezione diretta. Ah, vabbè. Percezione diretta, sono pagate fatture. Poi, capi 38-39, ritorniamo alla questione della Poli Stefano, qui sono fatture per 250 milioni di lire. Riconosco 250, la differenza 150 lire. Poi vediamo alle vicende delle tipografie. Don Pe Sergio, che capi sono? Capi 40 e 41. Se sono finanziamenti, fatture, eccetera, non posso considerarli possibili. Allora, sono pagamenti di una fattura di Don Pe Sergio alla Simeone. Non ho motivi per dire di no, ma non furono tutte le fatture di Simeone, come è emerso. Io non conoscevo Simeone l'ho conosciuto tanto quando dopo ho pagato il saldo. Quindi, Poi, capi 42 e 43, vicende Pfizer, Fontana Tommaso, Umpert Bernd, sono 60 milioni circa di fatture per la Simeone. Anche qui sono sempre rapporti che ha avuto Marone, quindi se ci sono le ha fatte a nome mio e ne sono corresponsabile. 44 Proinvest SRL Pozzoli Franco, fatture per 80 milioni circa più IVA. Ma questo Pozzoli Franco non lo conosco proprio, non so chi sia, non ho assolutamente cognizioni, quindi non ho proprio nessun tipo di riferimento per dire com'è che questo ha dato, o come fattura, o come altro contributo. Capo 45, Chinca Alberto, società Interpromo, sono circa 50 milioni più IVA. Non ho proprio cognizione, questo signore non l'ho mai conosciuto, mai incontrato, non so chi sia, non so per che cosa l'ha dato. Poi capi 46. Qual è il capo di primo? 40? 45. L'importo è? 50 milioni più IVA. Capi 46-47, vicenda PRL, Cerchiari Drago Alberto, 20 milioni no. più IVA. Capi 48-49. Se è una fattura, cade nella stessa logica, vuol dire, se è una fattura dico no, ma non nego la fattura, dico che c'è stato il giro evidentemente attraverso Marone, quindi non mi senti negarla, ma non sono a conoscenza del perché e della quantità. Capi 48-49, vicenda Florimonte Cesare Serono, anche qui fatture tipografiche 23 milioni. Rientra nell'ambito del capo di posizione che abbiamo visto prima, che ho riunito e unificato. Però io ho riferito come unificato, poi naturalmente... Sì, comunque, poi capo 50, Assovetro di Francia Francesco, sono 20 milioni più IVA, sempre pagate alla tipografia. Beh, l'Assovetro mi ha sostenuto dall'82-83, quindi l'Assovetro hanno sempre fatto pubblicità sull'opinione del Mezzogiorno, era una ricorrenza del tutto svincolata da qualsiasi attività ministeriale. Cioè, sì, lo accetto, l'Assovetro da sempre hanno finanziato il partito e la mia attività. Capo 51, vicenda Gazzoni S.P.A., interessato ai Gazzoni Frascara Giuseppe, fatture per circa 100 milioni di lire pagate alla Simeone. Lo stesso ragionamento di prima attraverso Marone, quello che so che Gazzoni diede disponibilità a sostenere politicamente me come Patuelli, perché Gazzoni è di Bologna ed era stato un forte un imprenditore che ha sempre dato contributi al partito e quindi decise a un certo punto di finanziare più quelle persone del partito su cui credeva che genericamente il partito, e quindi destinò a me una certa somma che poi Marone gestì sul piano operativo. Quindi poi a chi sono stati pagati queste fatture e come sono pagate non ne sono a conoscenza. Capi 52-53, vicenda Rinaldi Edo, Istituto Siero Vaccinogeno Italiano, 30 milioni, anche qui una fattura della Simeoni. Non ho mai conosciuto Rinaldi, non so niente, non ho proprio percezione, non conosco neanche questo istituto. Capo 54, vicenda Calafato Giulio Quaker Chiari e Forti, fattura di lire 20 milioni di lire. Sì, non conosco Quaker, conoscevo il presidente della Chiari e Forti, è vero, mi hanno dato questa disponibilità. Anche questa svincolata da qualsiasi attività. Poi capi 55-56 sono le vicende del gruppo Smith Klein Zambelletti ISF eccetera, imputati Zambelletti, Valls, George, Stedler, Secondi e Lupo, somma di lire 600 milioni, sì. Queste sono fatture, vero? Sì, fatture, parte alla testa Armando e parte alla Simeone. Questo rientra nell'ambito sempre della triangolazione della testa. Sì, sì, qui entriamo poi nel merito, ma mi corre l'obbligo di dire che questa questione mi fu posta da Zambelletti, che era amministratore delegato, tutta la società, che disse che loro senza nessun problema potevano fatturare quanto volevano, perché erano interessati a sostenere il partito e preferivano farle nell'ambito di indicazioni che avrei potuto dare, quindi è un'offerta che è venuta svincolata a qualsiasi cosa, poi ne entriamo nel merito dopo. Sì. Capi 57-58, questa volta il rapporto non è con Simeone ma con Sograme di Palmieri Vera, c'è una fattura di 25 milioni più IVA pagati dalla Sandoz, deputato Miglio Giuseppe. Ma la stessa cosa, Marone evidentemente ebbe la disponibilità di Sandoz e fece pagare, non dico di no, sono d'accordo che l'ha fatto, però di nuovo con la Sandoz non c'è mai nessun rapporto. Adesso passiamo alle vicende del Rimez, capi 59-60, vicenda Le Petit, quindi imputati Maiatico e parenti, ci sono 70 milioni di lire in contanti, una fattura di 30 milioni alla Simeone, 60 milioni al Rimez e 60 milioni all'Opinione del Mezzogiorno. Per l'Opinione del Mezzogiorno e il Rimez non ho dubbi che sia così. 70 milioni liquidi non lo so, perché tra l'altro mi corre anche l'obbligo qui di informare il Tribunale che Maiatico era stato segretario mio particolare perché era stato per lungo tempo in precedenza segretario generale della GLI, della Gioventù Liberale Italiana, era stato tra l'altro stato studente in medicina a Napoli, quindi era anche stato allievo mio quando io insegnavo all'università, e durante tutto il periodo in cui lui è stato segretario mio, dall'83 fino all'86, con lui non c'è stata nessuna questione relativa a finanziamenti chiesti o avuti. Maiatico sapeva che c'erano delle esigenze perché lui stesso era un politico di livello nazionale e evidentemente si adoperò nelle forme compatibili, perché sull'Opinione del Mezzogiorno si tratta di pubblicità, questo poi lo discuteremo in seguito, in quanto obiettivamente ci sono state una serie di pubblicità fatte su altri giornali all'ambito di questo processo e non mi risulta ci sono stati capi di imputazione, quindi vorrei capire un attimo qual è stata la differenza tra l'Opinione del Mezzogiorno e gli altri giornali come l'Unità davanti il popolo rispetto a queste cose. Comunque ne parleremo dopo. Per il Rimez certamente c'è stata questa contribuzione, però anche qui non sono in grado di dire se gli studi sono stati compiuti o meno, perché quello che risulta con certezza è che una serie di studi sono stati condotti con grandissimo rigore. L'esperienza Nomisma può essere benissimo riportata a Rimez. Il Rimez era stato costituito, no, poi voglio dire subito, sì, ma il Rimez non fu costituito quando io divenni Ministro della Sanità. Il Rimez esisteva già da 7-8 anni prima, e quindi come tutti i centri studio, quello di Amato che pure ha avuto finanziamenti eccetera, poi il capo di misura è stato fatto soltanto a me, ma Giuliano Amato non mi risulta che sia stato fatto come a tanti altri. Capi 61-62, vicenda... La fattura non ha risposto, per le fatture Simeone vale... Presidente, per le fatture vale lo stesso discorso, mi scusi ma... Capi 61-62, vicenda Porporati Guido Bristol Myers Squibb, 70 milioni circa, fattura del Rimez. Sì. Capi... studi e poi quindi... Certo, sì, fatto e qui rimane come regola generale, vorrei sia che il PM che il Tribunale tenga conto che quando dico sì non significa che fa poi... No, no, ma noi andremo nei particolari. Perché alcuni furono fatti... veramente, da altri invece risultarono soltanto come forme di finanziamenti illeciti. È solo una ricognizione, sì, così di carattere preliminare, giusto per avere un'idea. Capi 63-64, sì, vicende De Santis Francesco Italfarmaco, tre fatture del Rimez per un totale circa 100 milioni. Sì, perché fui io proprio a chiedere a De Santis, con il quale non ho avuto mai nessun rapporto e infatti non vi è alcuna contestazione, in occasione della campagna elettorale, di dare dei soldi al Rimez per borsi di studio. Quindi poi furono... capi 65-66, vicenda Pfizer, imputati Fontana Tommaso e Bernat, 40 milioni per il pagamento di fattura del Rimez. Sì, questo è capo 65-66? Sì. Io incontrai Fontana soltanto brevissimamente in aereo poco prima che fossi nominato ministro, e lui scommise che sarei diventato ministro. Poi venne a novembre, questa fattura del Rimez sarà a novembre, cioè 2 mesi dopo che io presi possesso al Ministero della Sanità. Quindi 40 milioni di fatture sono nel mese di novembre dell'89. Invece poi mi risulta che le fatture fatte a Marone risalgono fino al 92. Io per l'Imeco, le fatture di cui Marone oggi non ricordava, che sono importi di 3 milioni che abbiamo trovato nel capo di imputazione, risalgono al 91 e il 92 e riguardano lui, perché altri finanziamenti o altre iniziative con Fontana non ci sono state, c'è stato soltanto questo del novembre 89. Poi passiamo alle cosiddette vicende Explorer. Allora abbiamo i capi 67 e 68, vicende De Santis Francesco Italfarmaco, abbiamo fatture per 101 milioni. Devo fare una breve premessa per questa questione dell'Explorer. Io ho avuto questo secondo mandato di cattura per l'Explorer senza neanche sapere perché mi era stato messo, perché io dell'Explorer Macro non sapevo letteralmente niente. È stata un'operazione condotta direttamente da Altissimo con Marone, perché Marone ha vissuto per un anno a Napoli con Altissimo, era molto amico Altissimo dei fratelli di Marone e di Marone stesso, tant'è vero che fu Marone a indicarmi Altissimo, e a me risulta che fu Altissimo a chiedere un aiuto per il pagamento di quello che il partito, avendo concluso un contratto, non era in grado di fare per un sondaggio telefonico. Quindi lei non sa niente di questo. Dopodiché io delle modalità di questo so soltanto che dopo che Marone disse ad Altissimo che potevamo intervenire per soddisfare le regioni, mi chiese come facciamo e diceva vediamo se qualcuno ci può dare una mano perché io non so a chi rivolgere. E chiedemmo genericamente a Poggiorini se c'era qualche industria farmaceutica che era disponibile a dare un sostegno all'attività politica. E Poggiorini indicò queste industrie che non ebbero nessun rapporto con noi. E quindi devo ritenere che poi, alla luce delle cose, De Santis fu chiamato per questo, senza però avere nessun rapporto con me. Allora, Capis... Presidente, scusi una... No, una sola cosa volevo... Che arrivetto, se... È stato un lapsus, che hai detto tu, Marone che mi presentò Altissimo. Sì. Un lapsus. Altissimo mi presentò Marone, chiedo scusa. Ci avete sembrato strano. Scusi, volevo sapere sì. Questo, Altissimo o Bassanini? Guardi, c'era un rapporto diretto legato proprio a una vecchia amicizia tra Marone e Altissimo, che era un'amicizia di tipo familiare, perché Altissimo ha vissuto a Napoli un certo periodo di tempo. Allora ci fu, vengo subito, ho capito da dove vuole arrivare. Sempre con riferimento all'esplorazione. Sì, sempre, ho capito dove vuole arrivare e spero di poter chiarire questo aspetto. Altissimo, che era sempre molto vago e generico, sia nella sua attività politica e nelle modalità con la quale interveniva nel dibattito, sia anche nella gestione del partito, avrà chiamato, si è visto, dice guardate qua ci sta questa cosa, dovete provvedere, e siccome aveva un rapporto diretto con Marone, Marone si offriva e aveva interesse a dimostrare ad Altissimo che lui era in grado di alleggerire le responsabilità e i problemi di Altissimo. Quindi ci fu inizialmente al vertice questo rapporto, dopodiché siccome Bastianini era il delegato di tutto e per tutto da parte di Altissimo, che sostanzialmente lavorava pochissimo al partito, stava un paio di ore al giorno e poi aveva altri interessi, evidentemente poi successivamente Bastianini avrà in qualche misura concordato con Marone sulle modalità di pagamento e sulle forme poi effettive di partecipazione di questa industria. Poi capi 69 e 70. Vicenda Lapeir Daniel Lirca Sintelabo, somma complessiva di 200 milioni circa, di cui 100 milioni in contanti nelle mani di Marone e 100 milioni per il pagamento di, la fattura, di una fattura Explorer. Di questa cosa io non sapevo niente. Dei 100 milioni dati a Marone non sapevo niente, perché Marone di questa questione non mi riferì niente, tra l'altro... Libonati, e siamo andati in cattedra insieme, abbiamo vinto lo stesso concorso di biologia molecolare, il secondo concorso partito in Italia nel 1971, essendo di genere, essendomi stato presentato, la cosa non avevo neanche lontanamente idea di avere questo sostegno, non ne so niente. Poi dopo, leggendo gli atti, l'ho saputo e non posso a posteriori dire così, ma so che io dissi di no nell'interrogatorio che feci anche con voi e con Di Pietro, quando vi portaste l'elenco dei contributi ricevuti o meno, e in quel caso dissi non sapere niente dalle PER, poi alla luce dello svolgimento del processo non posso dire oggi di non averli avuti, perché sono lì testimoniati da fatture e da altro. Capo 71, vicenda Benanti Giuseppe Sifi S.P.A., 50 milioni di lire per pagamento di fattura Explorer. Non conosco né Benanti né la Sifi, ma rientro nella stessa logica di De Santis e di Rapero. Furono chiamati perché ci fu questa generica sollecitazione mia a Poggiolini, che poi in realtà si rivolse alla moglie, e la moglie, che mi aveva in diverse occasioni visto e ha detto, dicendomi che c'erano persone che volevano dare un contributo, e devo dire che nell'ottica di allora, me ne rendo conto che oggi va visto in termini diversi, soprattutto per ciò che mi è costato in termini anche di sofferenze oltre che fisiche e mentali, nell'ottica di allora avere un contributo del partito da persone che non si conoscevano e che si offrivano era un'occasione a non sprecare. E siccome mi disse prima la moglie di Poggiolini che c'erano gli imprenditori, volevo dare un contributo, dissi a Poggiolini ci sono delle imprese che voglio dare, e Benanti rientra tra questi, ma io non l'ho mai visto, non l'ho mai conosciuto e non so esattamente poi in che forme, in che modi e quanto ha dato, ma naturalmente accetto questo tipo perché sta nell'ambito delle cose dell'Explorer. Capi 72-73, vicenda Chiesi Farmaceutica, imputato Chiesi Paolo, 75 milioni di lire per due fatture Explorer. Anche qui non sapevo niente, tant'è vero che nel confronto, nell'incontro interrogatorio con Di Pietro e voi dissi di no. Poi dopo mi sono reso conto che fu chiamato per l'Explorer, ma questo testimonio è fatto, io dell'Explorer non sapevo letteralmente niente. Capo 74, sì. Vicenda Giombini Giorgio Cianamit Italia S.P.A., pagamento della somma di 100 milioni più IVA per una fattura Explorer. La stessa motivazione di prima. Poi, capi 75-76, vicenda Facchetti Giuseppe Di Tondo Marcello SCR, pagamento di una fattura di 123 milioni circa, sempre per la Explorer. Di questo non sapevo letteralmente niente. Per quello che mi riguarda l'SCR, che non è stata aggiudicataria, poi dopo lo preciseremo successivamente, l'SCR, siccome vide l'ingresso di Facchetti che confluì con la Incom News nel marzo-aprile del 90, Facchetti era deputato liberale, qui ci fu un rapporto diretto Facchetti-Bastianini altissimo, di cui io ignoro totalmente tutto. Allora, capi 77-78, vicenda Giacopinelli, Bona, Testamarco De Barberis, Bastianini, quindi impresa Testa Armando, somma complessiva di 483 milioni di lire, di cui 180 milioni per il pagamento di fatture della Testa alla Explorer Marketing e 303 milioni quali somme erogate dalla Media Italia, una società legata a Marco Testa, per l'acquisto di spazi pubblicitari relativi alla campagna elettorale. Quali capi di protezione sono? Sono 77 e 78. Ecco, allora questo è il momento di cercare di avviare il chiarimento su questa questione. Testa, come emerge da qui, in tutto ha contribuito al sostegno del Partito Liberale Nazionale con 180 milioni. Il resto non è stato il risultato di contribuzioni, d'azioni, come si vuol dire, di Testa. Testa aveva accettato, ecco perché non poteva essere, diciamo, nell'ambito del 2,5%, perché Testa, dopo mi risultò questa cosa, si prestò soltanto a fare da ricevitore di contribuzioni motivate con prestazioni fornite a queste aziende farmaceutiche. Cioè Testa dice, io ti offro uno studio, ti faccio questo studio e tu mi paghi. E questo rapporto è intervenuto direttamente da Poli e da quelli che già mettevano a disposizione queste somme. Quindi da parte di Test, questi finanziamenti presi venivano poi presi in una quota maggiore, perché Test doveva evitare di rimetterci in termini fiscali, e convertiti in moneta liquida, data a Marone e riversata alla Testa stessa per le prestazioni che la media faceva per il Partito Liberale in termini di pubblicazione, di pubblicità sui giornali nazionali. Quindi il problema è che Testa non mise niente di tasca sua, ci guadagnò una quota parte, quella fiscale, dava i soldi a Marone, che non erano soldi della Testa, ma erano soldi di Poli, di Zamberetti, quelle sue offerte, e Marone con quello provvedeva a pagare la media, che era una società pubbliche relazioni che prenotava gli spazi sui giornali e che dovevano essere ufficializzati, perché come è ben noto la pubblicazione di spazi pubblicitari deve essere nominale, e quindi volevano i giornali quotidiani essere pagati immediatamente. Da questo si emerge anche la difficoltà, perché loro dovevano tener conto che nel momento in cui facevano l'ordinativo per la pubblicità bisognava anche garantire il pagamento. Quindi la questione Testa è completamente esclusa da qualsiasi tipo di contribuzione che loro non hanno mai fornito al Partito Liberale, né nazionale né locale, al di fuori dei 180 milioni che sono stati dati a livello del sondaggio telefonico. Poi passiamo alle vicende delle campagne AIDS, tra le quali doveva essere annoverata chiaramente anche la Testa, che per comodità è stata messa tra quelle dell'Explorer. Quindi capo 79, vicenda Cicero Armando Ades Armando, società DAPS, 84 milioni circa. Potete prendere un po' d'acqua minerale? Come no? Beato lei che può. Dunque, io ribadisco quanto ho già detto, non ho mai conosciuto Cicero e non ho mai saputo niente dell'Ades. Tra l'altro, su questa vicenda dell'Ades c'è un problema che poi ho scoperto con grande rammarico, perché Marone si attivò a chiamare la DAPS, non è l'Ades, la DAPS deve essere. DAPS. Ah, scusate, ho capito l'Ades, perché ci sta uno dei coimputati, si chiama Ades, quindi qualche volta faccio più confusione. La DAPS non è mai intervenuta, non mi ha mai chiesto niente, non mi è mai stato presentato a nessuno. Solo quando ho avuto questi capi di imputazione mi sono chiesto questo Cicero da dove veniva. Ho letto poi anche negli interrogatori che Cicero fu chiamato da Marone, perché sostanzialmente Marone voleva sottrarre pubblicità alla SAIP di Acampora, perché in questo modo, dandola ad uno che io non conoscevo, lui poteva avere la certezza di non sapere ciò che loro decidevano insieme. Quindi di Cicero e della DAPS non so niente, e non esiste nessun tipo di collegamento né diretto, quindi non so letteralmente niente di questo Cicero, che cosa ha fatto, se ha soldi, fatture, non ho proprio cognizione della sua esistenza. Allora, capi 80-81, vicenda Young e Rabicam, imputati Di Maio Anna, Incecchi Alessandro, Dinnella Carlo, Castellano Ugo e Procaccini Ubaldo, somma di 50 milioni circa. Ma qui non esiste proprio la dazione di 50 milioni, se mi consente, emerge, non vorrei entrare nel merito, chiedo scusa al Tribunale se forse ho fatto un riferimento, comunque qui emerge con certezza che De Lorenzo, a titolo personale o per la sua attività politica, non ha avuto una lira di questi 50 milioni, non vedo perché mi sono stati addebitati, perché Procaccini dice di aver avuto 15 milioni o lui dice 5, la De Maio dice 15 e di averli spesi per la sua campagna elettorale, Marone dice di non aver mai ricevuto una lira, la Young Rubicam non si è mai rivolta a noi, quindi non vedo questi 50 milioni dove sono usciti. Capi 82-83, vicenda Marcucci Andrea, per Video Music, somma complessiva di circa 60-70 milioni di lire. Dunque, Marcucci Andrea, che era parlamentare liberale, che era anche con la famiglia titolare di Video Music, ebbe per conto proprio l'assegnazione di una parte della campagna AIDS, la prima che feci io, senza che chiedesse niente e desse niente. Quindi il suo titolo e il diritto a entrare nell'ambito della campagna pubblicitaria televisiva era già stato registrato dal fatto che gli era stato assegnato per la prima campagna uno spazio di pari 300 milioni attraverso la SIPRA e un'altra società collegata con la RAI che aveva Video Music come, come azienda per cui faceva fatturato. Dopodiché, siccome venne esclusa nella seconda campagna, io mi limitai soltanto a dire a Marone: vedete perché uno che l'ha avuto nella prima campagna, viene escluso, non ha fatto bene, cosa ha fatto Video Music, una televisione importante, eccetera. Va Marcucci da Marone, sistemano la cosa in qualche modo, perché poi ha 180 milioni, questo è tutto, riescono a recuperare quello che era stato un danno che gli avevano in precedenza fatto, e finisce lì la storia. Poi ci incontriamo al Parlamento, perché Marcucci viene eletto per la prima volta, io invece sono stato eletto per la terza volta, nella elezione del 92, e mi disse Marcucci: guarda che ora tutto dipende da te, perché dopo il successo del 92, se a Napoli andiamo male alle elezioni del comune, qui ci giochiamo tutta la partita, in che misura ti posso essere utile? Ho detto: guarda, io sono disperato, perché la campagna elettorale politica del 92 ha assorbito tutto, ora teniamo la campagna elettorale per le comunali, io ti do un contributo. Dico: beh, se vado a portare a Marone. E ha portato un contributo di 70-80 milioni esclusivamente mirato per la campagna elettorale, come il resto sostiene lo stesso Marcucci. Quindi sì, ma un contributo dato nell'intervallo tra la Camera, le elezioni per la Camera del 92 e le elezioni per il Consiglio Comunale del 92, che si fecero un paio di mesi dopo. E lui me lo disse autonomamente come sostegno. Non avrei mai potuto pensare di dire a un collega parlamentare, tra l'altro giovane collega parlamentare, imprenditore: siccome hai avuto 180 milioni, dammi 80 milioni e poi corrisponde a, a più del 34-35%. 60. Poi vicende, capi 84-85, vicenda Campora Pasquale Saip, 200 milioni circa. No, perché il rapporto della Saip con Campora fu un rapporto diretto e personale, Marone a Campora. Poi, capi... C'è un contributo, contributi che io ho avuto da Campora prima della campagna AIDS, perché con Campora avevo un rapporto che era anche di tipo politico, perché Campora era stato all'inizio liberale, poi passò democristiano, come naturalmente fecero quasi tutti quelli che stavano a Napoli, perché il Partito Liberale non contava niente, e poi ritornò nel momento in cui i liberali cominciarono ad avere un certo ruolo. E allora lui nel periodo 83-84-85 mi disse che c'era Telelibera, e siccome invitava anche mio padre come presidente dell'Ordine dei Medici, avevamo un certo rapporto. Io a titolo personale, siccome conoscevo imprenditori del settore alimentare, gli feci avere un aiuto in termini di fatturazione di attività televisive, e lui lo ricambiò sia dando dei contributi a Fracasso, che non era un dipendente, era un giornalista, e sia dando qualche cosa al partito, perché diede effettivamente al partito 10-15 milioni per volta, ma mai dopo l'89, quando il rapporto è intervenuto Marone e lui se la sono visti loro, tant'è vero che ogni volta mi veniva a parlare di Marone, dico: vedete lui, perché non ho nessuna voglia di intervenire su questioni che riguardano voi, perché lui diceva che era una mediazione che dava a Marone, vedete ora voi. Poi, capi 86-87, qua senza dilungarsi perché so che sì, uno dei punti più... vicenda Brancher, sì, 300 milioni, sì, poi ci torneremo. Poi dopo, sì, certo. Accetto il suggerimento, sì, sì, sì, con le riserve. Certo. Poi, capi 88-89, sì, vicenda Publicis FCB, Giannotti... Fausto Masi De Vargas, 360 milioni, di cui 140 milioni in contanti, e il resto fatture della Simeone. Per quanto riguarda Marone, una fattura della Imeco. Non sapevo niente dell'Imeco, cioè dell'Imeco 63 milioni non sapevo niente, perché Marone non mi ha mai detto di aver chiesto o una polizza o una fatturazione per sacchetti. Tant'è vero che io, che mi preoccupavo che lui perdesse tempo a scapito della sua attività, gli avevo detto più volte: dimmi che cosa posso fare per te. Marone mi ha detto: no, io lo faccio per il partito e per Altissimo perché sono liberale. Poi ho scoperto quello che è venuto fuori e ignoravo totalmente queste fatture all'Imeco, come ignoravo i contratti assicurativi e tutto il resto che è venuto dopo, perché io sollecitavo e lui non mi diceva. Poi mi è parso molto strano e ho capito poi la dinamica del suo comportamento a posteriori. Per quanto riguarda i 140 milioni in contanti di Giannotti, io con Giannotti non ho avuto mai nessun rapporto, quindi non so assolutamente niente di quei 140 milioni. So che c'era un rapporto Marone Giannotti, tant'è vero che c'è anche una fattura che Marone ha pagato a Giannotti di 56 milioni. Pare strano che Marone paghi una fattura. Posso avere un altro poco d'acqua? Prendete la bottiglia così non vi disturbo. Pare strano che Marone paghi una fattura di 56 milioni a Giannotti, che è una delle, la FBC è una delle agenzie più importanti d'Italia, per farsi fare una campagna pubblicitaria per l'Imeco, campagna pubblicitaria che io non ho mai visto e non so se poi è stata fatta o meno. Comunque ho questa fattura perché ho trovato gli atti che mi sono studiati approfonditamente, non lo sapevo neanche, ma questo mi conferma che c'era un rapporto tra i due che andava al di là del rapporto ministeriale, perché una fattura di 56 milioni pagata all'Imeco, alla Publicis, per una cosiddetta generica campagna di pubblicità dell'Imeco, mi sorprende alquanto. Comunque dimostra il perché poi Giannotti ha avuto rapporti con Marone pagando le fatture fino al 92. E di queste fatture alla Simeone? Qui rientriamo nel solito discorso. Guardi, io, come del resto poi ha sostenuto anche Marone, Simeone non l'ho mai incontrato. Simeone aveva rapporti con Marone e Simeone aveva un vantaggio rispetto agli altri. Essendo stato il tipografo di Marone, aveva con lui un rapporto fiduciario. Per cui Marone mi raccontò questa storia come un grande vantaggio. Dice: questo ci fa i lavori e poi dopo, quando possiamo fare fatture, li copriamo. Allora, i lavori... Poi ci ritorniamo. Sì, ma voglio dire, no, sulla vicenda generale, perché non posso dire questo? Ci volevo arrivare un attimo, ci arrivo subito. Perché Marone si rivolgeva al tipografo, non soltanto per la campagna elettorale mia, che era minore. Noi avevamo campagne elettorali in tutti i comuni e se non facevamo noi i manifesti e la campagna elettorale, non soltanto per le elezioni, ma per i singoli candidati, non si presentava nessuno. Perché era evidente che col Partito Liberale non si faceva il quoziente. Allora anche i professionisti che si presentavano al Partito Liberale dice: sì, ma io non ci voglio rimettere. Allora Barone provvedeva alla campagna pubblicitaria con le tipografie sia per i candidati sia per le sezioni, e quindi io non so lui che cosa ordinava in termini di tipografia, perché a Napoli non c'ero, facevo politica in tutta Italia. E alla fine, quando ho capito questo, certo, lui si vede evidentemente gli dava un certo credito, ma poi questo signore Simeone chiedeva di essere pagato e lui con chi si trovava diceva: paga questo, ma io non lo so se l'ha pagato, quando l'ha pagato, se poi ha fatto lavori per Marone, perché io ho anche una fattura che poi, quando Simeone mi viene a chiedere 250 milioni a saldo della sua campagna, perché io voglio precisare una cosa per l'inquadramento della mia attività, io sono l'unico, credo, in Italia, l'unico responsabile politico lasciato il partito senza una lira di debito. Io ho lasciato il partito perché mi sono dimesso dopo il memoriale Marone nel giugno del 93, e nel momento in cui mi sono dimesso dal partito, alla sede di Napoli, pur non avendo più fatto politica dal momento in cui ho avuto l'avviso di garanzia dal 93, da quando mi sono dimesso da ministro, e non mi dimisi per questo, per un'altra vicenda ancora più triste della mia, che si sta chiarendo finalmente, io non ho fatto più politica attiva, ma ho contribuito a far fronte a tutte le spese del partito fino al giugno del 94. Per cui non c'è stata bolletta telefonica, bolletta elettrica o altri servizi, compresi il personale. venivano a casa mia a prendersi soldi per pagare il personale, perché né Amelia Cortese né gli altri deputati subentrati o consigli comunali intendevano dare una lira. Quando poi mi sono dimesso ho lasciato il partito e non ne ho saputo più niente. Quindi ho conosciuto Simeone quando mi è venuto a chiedere prima 50 milioni alla presenza anche dei Marinis, dati in CCT, e poi altri 200 milioni dati proprio il giorno che moriva il povero Vittoria. Allora, passiamo dalle vicende, cosiddette vicende acque minerali, capi 90 e 91, vicenda San Gemini, Ferrarelle, coimputati Violati, Buisson, Pinelli, Gironda e Galateri, 200 milioni circa, 200 milioni. Solo anche, sì o no? Anche qui no. No. Poi, capi... Violati me l'avrebbe detto direttamente, non mi ha detto niente, quindi come, così come ho detto quando ho fatto l'interrogatorio con voi e Di Pietro, riconfermo, no, non sapevo niente, poi se la date... Capi 92-93, cosiddetta colletta Mineracqua, coimputati Fortuna, Berger, De Polo, Dorna, Mentasti, Granelli e Buisson, 250 milioni di lire. Anche qua... Io non ho mai avuto rapporti se non una volta sola, per cui ho incontrato degli imprenditori, non so se ci fosse Mineracqua, perché questa storia della colletta Mineracqua veramente mi ha molto sorpreso, perché questa è l'approvazione della direttiva comunitaria approvata per legge, cioè una direttiva che è stata approvata nel 76 e che è stata inserita in un disegno di legge governativo in ordine progressivo. Se non si fosse messa questa direttiva si sarebbe fatto un'omissione specifica, quindi non poteva esserci nessun contributo se non quello, insomma, quindi non c'è stato di un rapporto. Sì, io capisco che io, però insomma, no ma io ci ritorno, non vorrei sembrare vessatore, ma ci ritorneremo, perché sì, l'interrogatorio chiaramente non si risolve, no, ma lo so benissimo questo, per carità, però insomma, mi consento soltanto la prima volta che ho occasione, perché magari ci sta qualche giornalista che poi sai pure che io ho una dignità personale da difendere, che spero il tribunale mi voglia restituire, perché io ho avuto grandi difficoltà di sopravvivere e se ho sopportato la mia esistenza perché sapevo in che misura avevo sbagliato. Allora lei mi deve consentire che se c'è un giornalista qua e domani dice De Lorenzo ha preso questi soldi eccetera, deve sapere per quale cosa l'ho avuta. Questa dignità lei mi deve consentire di far fronte, perché io ho anche famiglia, ho mio figlio che non mette più piede in Italia da Londra, da quando è successo questo. Ma noi ci dobbiamo ritornare, non è che... Sì, però intanto lei sa che se esce sul giornale domani, poi il giornalista il giorno dopo non c'è, perché viene soltanto, come è successo fino ad oggi, perché del dibattimento non è emerso niente, e si parla ancora del passato. Allora, la questione Mineracqua, io ho avuto un capo di imputazione, per una materia però qua non poteva avere il ruolo. Quindi non lo so che cosa dà, se mi disse genericamente Marone che questi erano degli amici con i quali avevo avuto un rapporto, perché non posso certamente negare che Violato lo conoscevo da 20 anni. Lo conosceva mio padre, era amico di famiglia, il padre è stato liberato, il figlio si è presentato a Perugia con un liberale. Quello che mi sorprende però è che Violati non viene a dirmi: Franco, mi ha chiesto Marone 200 milioni di materie, gliele devo dare o non gliele devo dare. Quindi come Violati, così l'acqua minerale. Io avevo rapporti con la Ferrarelle perché ero soprattutto interessato. Io che cosa chiedo? Chiedo di farmi le assunzioni, perché se non facevo le assunzioni non si presentava la lista nel paese. Allora mi rivolgo a quelli dell'acqua minerale per chiedere assunzioni. Poi non so se Marone chiede soldi o non li chiede. Quindi della questione minerale, perché non c'era ruolo che io potevo svolgere, quindi non poteva che essere semmai un finanziamento illecito. E non capivo, cioè in definitiva... In definitiva poi prendo atto che è successo, ma io non lo sapevo. Allora, soltanto che c'era un'indicazione generica per un sostegno al partito, però come, quando è stata data, attraverso quali forme, io Fortuna non l'ho mai incontrato, non sapevo chi era questo Fortuna. Allora, capo 94, sì. C'è la generica indicazione altre vicende, una richiesta che lei avrebbe fatto a Gazzoni Frascara Giuseppe di 500.000 dollari, Gazzoni nella qualità di presidente della Federalimentari. Solo se è vero o non è vero, poi anche qui ci ritorno. Ma questa è una cosa da schizofrenici, per tanto lo posso dire. Proprio schizofrenia totale, da medico lo posso dire. Quindi non è vero. Ma non neanche perché. Poi, capo 95, vicenda Leone Tronci della ditta De Bartolomeis, somma di lire 60 milioni circa. Sì, questo qua è per cui ho fatto anche il patteggiamento a Milano, patteggiamento pecuniario. Poi, capo 96... Perché lo stesso capo di imputazione, cioè, perché qui girano in tutta Italia, gli stessi capi di imputazione, c'è cioè, a Milano, gli stessi capi di imputazione, ci sono a Roma, ci sono altri capi di imputazione per cui sono stato prosciolto al Tribunale dei Ministri, c'è cioè una serie, e poi dopo gli avvocati cercheranno in qualche misura di renderlo chiaro. Sono capi... diverse cose del capo di imputazione qua dove sono stato prosciolto al Tribunale dei Ministri di Roma. Da Napoli nessun proscioglimento. Per lo stesso fatto. Per gli stessi fatti. Sì, sì. Da Napoli nessun proscioglimento mai, da Roma decine di proscioglimenti. Capi 96-97, vicenda De Luca Flavio Mei Alessandro della Ecotron, somma di 20 milioni. Ma questa è una cosa che quando l'ho saputo mi ha veramente completamente, assolutamente sorpreso, perché De Luca era commissario straordinario della Flotta Lauro ed era commissario straordinario della Flotta Lauro quando Altissimo era ministro dell'industria. No, solo se è vero o non è vero. Poi dal 97? Non risulta, ma come si permetteva De Luca, grande amico di Altissimo, da 20 milioni a Marone, in cambio di che cosa? Non esiste proprio. Vabbè. Andiamo a sospendere adesso, Presidente? Sì. Sospendiamo mezz'ora, vi prego di essere puntuali, alle 4:15 ci rivediamo. Presidente, io se mi consente vorrei soltanto avere delle indicazioni dei tempi, perché poi sono già... stamattina qui, cioè, se lei mi oggi, domani, tra l'altro io domani c'ho un processo. No, domani siamo già di sì, se, lei, se però lei mi consente, Presidente, quello è un processo delicato, Presidente, perché viene chiamato in causa mio cognato Alberto Izzo, che credo non c'entri niente, e chiede mia sorella che io vada lì a quel processo, quindi mi affido a lei. Lei sa, lei mi dice che devo venire qua, vengo qui, però la chiedo di considerare i processi messi tutti uguali. Abbia pazienza, non possiamo fare un braccio di ferro tra noi e Roma. Io ho fatto già l'altra volta, ho fatto presente che il nostro calendario è sicuramente antecedente. Voglio dire, se lei mi dice che Roma non glielo rinvia, mi mette davanti a una situazione, perché se poi non lo rinvio io... Lui ha fatto l'istanza, no? Voglio dire, l'altra volta abbiamo fatto una certificazione. È depositata a Roma. Tre parole, perché sennò la sospensione non serve assolutamente a niente per il riposo di 10 minuti mentali del tribunale. Voglio dire, il tribunale deciderà. Il parlare con il difensore sostanzialmente è il parlare anche con l'imputato che il difensore rappresenta. La intesa significava che l'imputato avrebbe optato per la presenza qui e proseguire l'esame ed eccepire l'impedimento altrove. Questo è quanto. Ed è, voglio dire... Avvocato, devo dirle io che il processo, come glielo fanno se l'imputato sta qua, compare davanti al Tribunale di Napoli e risponde a un esame? È una scelta. Io non posso fare il processo. Che dubbio c'è? Il problema è... non si può in linea informale la giustizia trovare lei il Presidente d'accordo? Perché io... Quando l'imputato ha due processi, sceglie l'imputato dove andare. Se io ho parlato con i difensori e con i difensori abbiamo raggiunto un'intesa che l'imputato sarebbe stato qua, se poi non c'è, le conseguenze le traete. Ma io, Presidente, ho un problema. C'è mio cognato imputato con me e mia sorella mi chiede di partecipare a quel processo. Allora vi prego, alle 4. Fino a che ora, Presidente? Non più tardi delle 6. I difensori dell'imputato? C'è l'avvocato Floia. Allora possiamo riprendere. Prego, pubblico ministero. Iniziamo dalla vicenda di cui ai capi 2 e 3 del decreto che dispone il giudizio, che hanno per oggetto quella che noi come accusa abbiamo denominato colletta farmindustria. Allora, la prima domanda è la seguente. L'ammontare della somma, lei ha precisato oggi in sede di difesa, 700 milioni. Questa somma l'ha percepita direttamente o per il tramite di Marone? Dunque, la questione della differenza che ho fatto dei 700 e non degli 800 è che Cavazza, a nome della Farmindustria, venne ad offrirmi un sostegno politico che era stato concordato. Chiedo scusa, lei consente che siano fatte riprese? No, riprese qui a, già, si ricorda. Ma già lo sa, già lo sa. Poteva darsi che il deputato avesse cambiato idea. No, no, no, Presidente. Tutto quello che consiglia la legge, al di fuori della mia diciamo, contrarietà, a essere ripreso mentre depongo qui. E non sarà ripreso. Venne da me per dire che voleva dare. Sì, sì, no, se mi guida lei. Se facciamo domanda risposta, va bene, cortesemente, così vediamo anche. Snaturiamo la natura dell'esame. Grazie per ma dico, per, giusto per chiarirci le idee, perché così io cercherò di seguire l'esame al meglio possibile. Voglio dire, l'esame deve rispondere anche a una logica di chi interroga. Chi interroga vuole una conseguenzialità in quello che chiede, proprio per cadenzare le sue domande. E l'avvocato Faria, con il quale abbiamo avuto tante discussioni sulla natura dell'esame, una volta tanto è d'accordo con me. Ho avuto questa sola. Io lo dicevo benissimo. Siamo alla prima domanda. Vabbè, d'accordo, ma non è che... Allora, dire, avuto, no, siccome abbiamo fatto, forse lei non c'è, qua purtroppo questo alternarsi dei tempi. Lui ha fatto prima una richiesta, ora siamo al problema della natura, il pubblico ministero vuole sapere se le ha prese lui o se le ha prese per il tramite di Marone, posto che su 700 milioni ricevuti l'imputato ha detto che la materialità del fatto non è contestata. L'itinerario è tre parole, giusto per introdurre il tempo. Sintetico, allora riprendiamo, cerchiamo di riprendere. Allora, questa questione della colletta farmaceutica, Presidente. Allora volevo sapere, chi l'ha percepita? L'ha percepita lei? O Marone? No, è una di quelle vicende qua è intervenuto Marone, oppure lei ha vissuto in prima persona? In questa vicenda Marone non è intervenuto perché era un accordo politico a livello di partito. Ed infatti, che questo sia vero, lo testimonia la dichiarazione stessa di Cavazza, che dice, sono andato a De Lorenzo che volevo portargli 100 milioni. E io ho detto a Cavazza di andare da Altissimo. Infatti, Cavazza ha portato 100 milioni ad Altissimo. Dopodiché, nell'ambito del colloquio che si è sviluppato tra Altissimo e Cavazza, Altissimo ha detto, te la vedi con De Lorenzo, perché vi erano state collette dal Farmindustria in passato, dal 1983, non è che le collette sono nate con De Lorenzo, sono state collette dal Farmindustria, date a tutti, compreso a Don Accattin, di 200 milioni fatti direttamente da Cavazza. Allora, siccome c'era questo accordo politico che la Farmindustria sosteneva il Partito Liberale per la tutela che in qualche misura il partito avrebbe assicurato all'industria italiana che era stata sacrificata e mortificata da provvedimenti precedenti, Altissimo dice da ora in poi te la vedi direttamente con De Lorenzo. Quindi le questioni si sono incanalate in questa direzione attraverso un'indicazione che è venuta da parte del segretario del partito. Presentatosi dunque a lei il Cavazza per manifestare questa disponibilità, in sostanza fu lei a richiedere la somma per quell'ammontare oppure Cavazza dette la disponibilità in relazione all'ammontare di quella somma? Di questa questione del sostegno della Farmindustria al Partito Liberale se ne era discusso ripetutamente in passato, nel senso che... Può essere meno generico, scusi la interrompo, sì, professore, sì. Se ne era discusso, quale ambito ragione, è tra chi? Ha ragione, dunque, quando si trattò di avviare un dialogo, un discorso politico con i rappresentanti del mondo dell'impresa, Cavazza, a nome della Farmindustria, parlò con me e con Altissimo e disse che siccome la Farmindustria aveva sempre sostenuto i partiti che avevano un ministro della sanità e lo avevano fatto, Cavazza fa riferimento al suo predecessore Aleotti dal 1970, disse come abbiamo fatto con gli altri partiti faremo pure con lui. Che poi questo sia avvenuto lo dice Cavazza chiaramente, non soltanto nell'interrogatorio in carcere, ma anche successivamente al dibattimento. Quindi l'offerta fu sua in proporzione a quello che avevano fatto in passato e Altissimo disse non potete a noi liberali, che siamo un piccolo partito, considerare che non abbiamo le stesse esigenze, o ne abbiamo ancora di più, per far fronte alle spese della politica. Quindi non ci fu una richiesta. Io naturalmente feci presente che, e questo obiettivamente lo riconosco, che era vero quello che si era detto anche con Altissimo, che non potevano sottovalutare un'iniziativa che era la continuazione di precedenti in termini di penalizzazione di sostegno, e quindi disse: se avete dato 700-800 milioni, date anche a noi 700-800 milioni. Ma non fu una richiesta esplicita, ci fu nei confronti di Cavazza, perché questo venne alla vigilia di campagne elettorali. Dove, che anno? Questo avvenne, se non sbaglio, nel 91. Già da un anno era... Io ero ministro dell'89. Da 89. Con l'acqua alla gola per la mancanza di sostegni, e io dissi: beh, dateci una mano, perché tra l'altro le difficoltà maggiori erano proprio per le elezioni che si intervallavano tra le politiche e tra un'elezione politica e l'altra, cioè c'erano le regionali, le comunali, le regionali in Sicilia, eccetera, e la tenuta del partito era una condizione per poter mantenere un ruolo politico. Quindi in quell'occasione disse: dateci, aiutateci ora, perché ne abbiamo bisogno, perché in realtà dall'89 era al 91 e quella promessa fatta non si era ancora manifestata. Forse lei già l'ha detto, ma anche senza forse, ci può dire in che termini lei quantificò l'ammontare della somma? Esclusivamente rifacendomi alle quantità che loro avevano deciso di dare agli altri, e che le quantità siano queste, lo dice anche Cavazza, perché Cavazza dice: ora ci arrivo un attimo, se mi consente, voglio ragionare, datemi la possibilità. Però, voglio dire, sì, ma questo è importante, prescinde, Presidente. Da quello che hanno detto gli altri, dica la sua versione. La mia versione è questa, quella che ho detto prima, cioè che non ci fu una quantizzazione nuova, ci fu soltanto il ricordo di quanto era stato fatto in passato, e che questo ricordo sia la base della quantizzazione lo dimostra anche, questa è una prova a mio discarico, credo che possa in qualche modo riprenderla, lo stesso Cavazza che dice: in occasione delle collette alla Farmindustria io come Sigma Tau personalmente contribuivo con 70-80 milioni. Allora, se Cavazza contribuisce lui personalmente come Sigma Tau con 70-80 milioni, si può fare il calcolo per 200 associati o più, se non si arrivava perlomeno a quella somma di cui si è parlato prima, di 700-800 milioni. Quindi non ci fu una quantizzazione formale. Io feci riferimento a somme pregresse. Comunque, se ci sono altri riferimenti, io sono pronto a darlo. Voglio collaborare perché emerga la verità. Poiché rientra nelle imputazioni, le chiedo... Risponde a vero che la sua richiesta iniziale era pari a lire un miliardo? No, può darsi che io abbia detto: se avete dato un miliardo, ci avete dato un miliardo pure a noi. C'era anche nel male una dignità da rispettare, perché il complesso che avevano i partiti minori era quello di raccogliere sempre le briciole, e allora in quel caso in cui l'unico ministero che avevamo, l'unico ministero di spesa su cui Partito Liberale poteva contare per avere un sostegno, era il Ministero dell'Età, perché avevamo poi il Ministero per le politiche comunitarie, e quindi non vi erano altre possibilità di sostegno per l'attività politica del partito. Io dissi: tenete conto che anche se è un piccolo partito abbiamo esigenze che vanno manifestate così come le avete espresse nel passato. Questi colloqui iniziali in relazione a questa dazione di denaro, dove avvenivano? Ma guardi, anche su questo forse qualche considerazione di carattere generale è opportuna farla. Io ritengo, perlomeno mi sembra difficile, poter andare a individuare responsabilità, singole responsabilità penali nei rapporti svolti da un responsabile politico. Perché incontri con la Farmindustria se ne avevano ripetutamente, per far fronte a una serie di esigenze che il mondo delle imprese aveva. Come la Confindustria dialoga con i sindacati e con i ministri economici per le varie questioni che attengono alle decisioni di carattere economico, così la Farmindustria periodicamente, quindi non erano riunioni fatte perché finalizzate a parlare di qualcosa che io chiedevo e che loro davano, erano riunioni dove si partecipava e si discuteva di problemi tecnici, e magari alla fine, prendendo un caffè o un'altra cosa, diceva: beh, insomma, Franco, che dobbiamo fare? Siccome io poi a questi li conoscevo sul piano personale da sempre, perché mi sono occupato di problemi sanitari da quando ho cominciato a fare politica, perché sono stato nel 79 già nella direzione centrale. Ed allora, a fronte di questa sua richiesta, 800, un miliardo, fatte in questa maniera. Quale fu la prima risposta di Cavazza? Cavazza disse: Franco, finora non abbiamo fatto ciò che avevamo anche promesso con il partito di fare. Abbiamo difficoltà perché raccolta di denaro in nero è particolarmente difficile, tra l'altro ha detto bisogna cercare di evitare di allargare la conoscenza a più persone, perché è bene che su questa questione siamo molto riservati per due ordini di motivo, per due ordini di ragioni, scusate. Una era quella di mantenere segreto riservata una contribuzione che non era registrata, e quindi loro e io avevamo interesse a che la cosa rimanesse riservata. Ma l'altra era anche quella di non far sapere agli altri esponenti degli altri partiti che decidevano poi le scelte politiche per il farmaco, vedi Commissione Igiene e Sanità, che approvava e discuteva su ogni cosa, che vi era stato un sostegno al Partito Liberale, perché altrimenti analoga richiesta veniva fatta nella stessa misura dagli altri partiti. E quindi per questo bisogna andare con una certa gradualità e dire: guarda, da due anni siamo in attesa di un vostro sostegno, non ci arriva, dateci una mano. E quindi lui su questo chiese che ci fosse da parte nostra una maggiore comprensione, un interesse loro a sostenere il partito, ma con una maggiore gradualità. Tant'è vero che poi disse: siccome abbiamo problemi, provvederò direttamente, se per te è una cosa fattibile, con un versamento all'estero. E Altissimo mi fece presente che le modalità dovevo in qualche modo trovarle io. Può precisare queste modalità, in che cosa consistettero? Sì, lui... Chi le indicò? In che senso chi le indicò? Chi dette disposizione di fare il versamento su estero? Sì, dunque, allora, risulta anche altrove, in altri processi, che mi sembra per la questione Fiat, che la Fiat ha fatto versamenti all'estero per Altissimo sul conto corrente di Altissimo. Cioè il Partito Liberale non poteva avere all'estero, come tutti i partiti, un conto corrente come noi invece avevamo fatto a Napoli, dove sono transitati 2 miliardi e 200 milioni, perché Marone dai soldi che vengono prima depositati sul conto corrente e poi spesi. E questo è l'unico partito che l'ha fatto, non sono conti correnti di altro. In quel caso all'estero non si poteva avere un conto corrente per il partito. E allora fu trovata una soluzione, per cui disse che il versamento non poteva essere fatto all'estero, per avere maggiore sicurezza. Lui non mi disse poi come raccoglieva questi soldi. Ho detto: provvedo io, e mi fece capire che provvedeva in qualche modo a livello personale per far fronte a questa esigenza, però all'estero, perché sennò non ho la disponibilità. Tant'è vero che poi lui fa scambi con altri, cioè lui anticipa dei soldi e poi gli altri li ricambiano in termini di prestazioni a livello imprenditoriale. Invece di dare la quota che lui aveva anticipato, si scambiano servizi o altre cose di questo genere. E disse: l'unica operazione che posso fare all'estero. E io gli dissi che avevo solo un modo per farlo, di indicargli un riferimento per un deposito su un conto corrente di transito che non era intestato né a me né a nessun altro delle persone che in un modo o in un altro potessero fare riferimento a me come persona. Era un conto corrente che faceva parte di un fiduciario, il quale su quel conto corrente ha avuto depositi da tutto il mondo da anni precedenti e che andava a individuare e a riconoscere attraverso dei riferimenti precisi che io diedi a Cavazza. Quindi a Cavazza, sulla base delle premesse che ho fatto, feci questo riferimento. Marone sapeva di questa colletta Farmindustria perché aveva partecipato, Marone era presente a tutte le varie conversazioni che si facevano, anche delle iniziative che il partito doveva affrontare. Siccome era molto amico di Altissimo, delle cose più segrete, lui ne aveva conoscenza anche con Altissimo. Quindi siccome di questa questione del sostegno alla Farmindustria ne era conoscente, io non gli dissi quando, ma dopo gli dissi: guarda che se noi abbiamo bisogno di finanziamenti, vediamo quello che dobbiamo dare al partito a Roma, ma possiamo anche in qualche misura tener conto di questo. Quindi Marone poi seppe dopo, ma lo seppe quando io già avevo provveduto, siccome c'era un rapporto diretto con Cavazza, non era il caso che io dicessi a Marone di il conto corrente, l'ho dato direttamente io. anche qual perché devo dire che Cavazza estero? Non aveva piacere di avere rapporti con Marone. Qual era questo conto estero? Io l'ho detto prima, era se lo conto ripetere. Corrente, ma sono disponibile sempre. Dunque il numero me lo ricordo, 3777. La banca, in questo momento non me lo ricordo, ma se voi me lo dite me lo ricordo, o comunque ho qualche amnesia, ma grazie. Insomma, se me lo dice Bruxelles Lafebvre, ha ragione, scusi. Di dove? Di Ginevra. Di Ginevra. Chi era questo fiduciario di cui lei ha più volte parlato anche prima, quando si è dilungato su quelle d'azioni sinteticamente esposte, ma non ha fatto mai il nome? No, io posso dirlo subito, il nome lo sapete bene, lo ribadisco, Mantello, il quale era... una persona che io conoscevo da moltissimi anni prima, perché era molto amico di mio zio e fratello di mia madre, che era segretario generale della Confindustria, me lo presentò a Capri, divenne amico mio di mio padre, ci conoscevamo sin dagli anni 70, e con lui avevamo avuto rapporti anche per altre questioni di carattere familiare precedente, per cui nel 90, proprio per dare la prova che c'era un rapporto noto e per renderlo notorio, volli che Marone sapesse che c'era questo rapporto in modo tale da avere anche lui direttamente poi la conoscenza e l'informazione dell'avvenuto versamento. E quindi chiese a lui se era possibile utilizzare questo suo conto corrente, che non era personale, di una società, perché arrivavano soldi, questo l'ho saputo dopo, dai paesi del Medio Oriente, da Sud America, eccetera, ha detto: ah, Franco, se hai bisogno di questa cosa puoi dare questo. Ed era depositato sul suo conto corrente di transito. Fu lei a mettere in contatto delle modalità del versamento di questa somma il Cavazza con Mantello? Ma non si misero d'accordo loro. Io dissi il nome di Mantello, gli diedi l'indicazione del conto corrente e poi credo che presero rapporti direttamente il fiduciario di Cavazza con Mantello, fecero l'operazione non attraverso un contatto diretto Cavazza con Mantello, ma attraverso un altro suo fiduciario che operava in Svizzera, perché Cavazza inizialmente disse che i soldi me l'aveva dato a mano, quando io invece feci il primo interrogatorio disse: ma questa è una bugia, sul conto corrente, perché inizialmente non voleva far sapere che lui aveva dei soldi in Svizzera. E io andai da Di Pietro e da voi e dissi: mai avuto una lira da Cavazza personalmente. E poi dopo lui ha corretto il tiro e ha detto che era stato fatto questo versamento, che è avvenuto attraverso rapporti che si sono stabiliti direttamente tra il suo fiduciario e questa persona indicata da me. Trattandosi di dettaglio, sa se si è trattato di un unico versamento oppure di una... No, più versamenti, perché non aveva la disponibilità. Non so poi quando e non me ne informai neanche, perché poi la questione non si pose in termini immediati, perché la necessità di attingere il giorno dopo non c'era e quindi non seppi mai esattamente quando avvenne. Ma lui disse: Franco, sto provvedendo. Ritenne la cosa stabile. Poi non mi preoccupa neanche di chiederlo, perché non c'era una forma di morbosità per questo aspetto, che era soltanto limitato alla questione politica. Voglio dire, ad avvenuto versamento della somma nella sua globalità, così come lei aveva richiesto, lei si è interessato per verificare se effettivamente il versamento era avvenuto? Guardi, la questione la voglio mettere così come è avvenuta. Io non ho mai telefonato per sapere se il versamento era stato fatto. Incontrai lui e mi disse: sì, Franco, abbiamo provveduto. Dopodiché capitava che incontravo Mantello in Italia, allora dice: guarda Franco, è arrivata questa somma, basta. Non è che poi andavo ad approfondire nel dettaglio. Incontrai lui e mi disse: sì, Franco, abbiamo provveduto. Dopodiché capitava che incontravo Mantello in Italia, allora dice: guarda Franco, è arrivata questa somma, basta. Non è che poi andavo ad approfondire nel dettaglio.